Ora la giornalista Alessandra Rachi ha scritto Non più briciole, pubblicato da Longanesi. È una sorta di sequel, diciamo, è la questione dell'anoressia vista dalla parte della madre di una ragazza anoressica. Una madre che viene messa sotto accusa da molti psichiatri che identificano proprio in questo rapporto fondante madre-figlia una delle cause principali della malattia. Con questo romanzo Alessandra Rachi ci racconta dunque i pensieri e le emozioni, oltre alle varie vicissitudini, di Marta, la mamma di Loredana. Sono personaggi di fantasia. Loredana che un giorno decide con determinazione e grande controllo su se stessa di non mangiare più. Perché 20 anni dopo briciole l'anoressia viene raccontata dalla Rachi dalla parte di una madre? È una questione così semplicemente anagrafica? Sentiamola. Non ci avevo mai pensato, forse l'anagrafe mi ha sicuramente influenzato, anche se io non ho figli, quindi dico che faccio una difesa delle mamme a prescindere e non c'è conflitto di interessi. In realtà è venuto fuori proprio perché dopo 21 anni io non avrei mai pensato di rimettere mani su un argomento come l'anoressia. In questi 20 anni mi sono capitati sulla scrivania tantissimi libri sull'anoressia e non avevo più letto nulla. Quando con una chiacchierata col direttore editoriale della Longanesi ha fatto nascere l'idea di questo libro, ho cominciato a riacchiappare i fili e ho visto che in questo circo della comunicazione mediatica, in questo circo mediatico, tutti avevano messo bocca sull'anoressia tranne le mamme, che sono poi le più bistrattate di tutte. Immagino anche che tu sia stato un po' il punto di riferimento anche pubblico dell'anoressia, sei stata la prima a rompere un po' questo tabù proprio dal punto di vista anche narrativo. Immagino che ci siano state anche tante madri che ti abbiano scritto in questi anni e raccontato magari le loro esperienze. Assolutamente, e con il tempo prima venivano più ragazze, poi col mio crescere dell'età sono venute tante mamme. Io ho conosciuto delle mamme meravigliose che venivano da me per un conforto, perché si sentivano doppiamente disperate, intanto perché avere una figlia anoressica è un dramma vero, e poi perché andavano dai medici che gli diceva è colpa sua, e queste mamme meravigliose. Esistono anche le mamme orribili, per carità, io ne ho conosciute tante bellissime, e questa cosa che la mamma è colpevole dell'anoressia forse è il caso di smetterla. Infatti in questo tuo romanzo la protagonista è Loredana, diciamo la ragazza malata di anoressia, e la madre viene, come dire, messa sulla graticola da tutti gli specialisti, da tutti gli psichiatri ai quali lei si rivolge per giustamente cercare di voler aiutare la figlia. C'è chi la definisce mamma drago, c'è chi, insomma, le danno subito delle definizioni stereotipate senza andare a fondo nella questione. C'è così tanta superficialità da parte degli psichiatri nell'affrontare la responsabilità, la causa dell'anoressia? Allora, per fortuna ci sono anche tanti psichiatri e medici bravi. Quelli che sono superficiali sono molto superficiali. Quello che io dico, cerco di dire anche con questo libro, l'anoressia non è stata mai indagata fino in fondo. Ancora oggi è una malattia enigmatica. Sono stati dati pochi soldi per la ricerca e quindi nel limbo dell'incertezza si fioriscono le sciocchezze. Quindi adesso, da poco tempo, si sta indagando una causa genetica, una causa organica. Io penso che bisogna tenere presente che il cervello è un organo anche pensante, e quindi va benissimo tutta un'analisi psicanalitica, psicoterapeutica, ma è un organo. Come si rompe un polmone, come si rompe un fegato, si rompe il cervello. E perché non possiamo agire anche sulla cura del cervello senza stare a dire, mi viene a dire, sciocchezze sesquipedali per non essere più volgare? Ma effettivamente negli ultimi anni si sta anche dimostrando che disturbi mentali come la depressione, il disturbo d'ansia, effettivamente possono avere delle cause organiche, perché no anche l'anoressia, insomma? Forse soprattutto l'anoressia. Io dico sempre che l'anoressia è il disturbo mentale con il più alto tasso di mortalità fra i disturbi della mente. Quindi il titolo Non più briciole di questo, oltre a voler evocare ovviamente il libro precedente, però c'è anche un motivo politico. Smettiamola con i vezzeggiativi, è una malattia importante, non voglio fare terrorismo psicologico, però le briciole, le farfalle, i passerotti, non si va da nessuna parte. Anche perché quando si parla di anoressia, spesso, non so, vedo banalmente in televisione, sui giornali, si fa subito l'associazione alle ragazzine vogliono essere belle e magre come le modelle. È un disturbo molto più profondo l'anoressia. Ecco, io vorrei anche spendere più di una parola a favore della moda. Se una persona è malata, se c'è questa piccola questione nel cervello, la malattia prende la forma dei tempi. Se sono malata e vedo una modella voglio diventare magra, se vedo un cavallo io voglio diventare un cavallo, ovviamente è per paradosso. Però le modelle sono belle e magre, a differenza di noi donne femmine normali che combattiamo con la bilancia, quelle non fanno troppo sforzo per fare quello che fanno. E non è vero che la colpa della moda dell'anoressia, perché ripeto, le modelle hanno la natura dalla loro e quello è, non devono, sì, magari fanno delle diete perché poi loro hanno delle cose. Sì, però ecco, non è probabilmente, cioè sicuramente non è la moda la causa dell'anoressia, insomma è un disturbo complesso mentale che ha a che fare col controllo e con tante altre questioni. È un disturbo complesso e va affrontato in maniera complessa, per cui anche la mia mamma del libro dice, guardando su internet, dice, gli esperti dei disturbi alimentari sono più numerosi dei tifosi del calcio, perché da quando la malattia è diventata di moda sono fioriti questi. Allora sarebbe anche opportuno mettere un po' di controlli su questi centri che curano l'anoressia, ce ne sono dei meravigliosi, vorrei citare quelli pubblici, sono dei centri pubblici fantastici, e ce ne sono altri dove per esempio non c'è neanche un medico. E questa era Alessandra Rachi, ora in libreria con Non più briciole, pubblicato da Longanesi. Grazie in regia a Gianmarco Ferronato. Vi ricordo che trovate sempre su podcast sia Il cacciatore di libri che le puntate di Romanzi in valigia che vanno in onda la domenica alle 17. Come sempre, se volete essere aggiornati potete seguirmi su Twitter. Una buona lettura da Alessandra Tedesco.